Capitolo 22. Un invito per Anna. «Come mai quegli occhioni fuori dalle orbite?» si informò Marilla. «Anna era appena tornata dall'ufficio postale. Hai scoperto un altro spirito affine al tuo, per caso?» La bambina sprezzava gioia da tutti i pori, le brillavano gli occhi e l'entusiasmo le accendeva i tratti del viso. Aveva percorso il vialetto del giardino a passo di danza, come un leggiadro folletto in volo sulle ali del vento, che attraversava a tratti la luce intensa, a tratti le ombre pigre di quel pomeriggio di agosto. «No, Marilla, ma non sai cos'è successo? Sono stata invitata a prendere il tè in canonica domani pomeriggio. La signora Allan ha lasciato un biglietto per me in posta. Guarda, per la signorina Anna Shirley, Green Gables. Nessuno mi aveva mai chiamato signorina. Che emozione! Lo conserverò per sempre tra i miei tesori più preziosi». «Sì, la signora Allan mi aveva accennato che aveva intenzione di invitare per un tè tutti gli allievi della scuola domenicale a turno», le spiegò Marilla, considerando con un certo distacco quell'evento sbalorditivo. «Non agitarti così, tu devi imparare a prendere le cose con più calma, bimba mia». Imparare a prendere le cose con più calma significava dover capovolgere la propria natura per Anna. Era fatta di spirito, fuoco e rugiada, e per questo la gioia e la tristezza, la felicità e il dolore la toccavano nel profondo con una forza e una potenza senza uguali, come se tutto fosse moltiplicato. Marilla se ne rendeva conto e si preoccupava, perché sapeva che gli inevitabili alti e bassi della vita avrebbero messo a dura prova l'animo appassionato e sensibile della bambina, ma non percepiva fino in fondo che quell'innata capacità di gioire e apprezzare ogni piccola cosa avrebbe dato ad Anna l'energia per affrontare problemi e dispiaceri. Per questo considerava un suo preciso dovere doverla abituare a mantenere un comportamento tranquillo e regolare, che però alla bambina risultava estraneo quanto lo sarebbe stato per un raggio di sole riflesso nel torrente. Tuttavia, e fra sé e sé, Marilla ammetteva con una certa delusione che in questo senso non aveva fatto grandi progressi. Una dolce speranza o un progetto falliti continuavano a far sprofondare Anna in baratri di disperazione. Ogni piccola soddisfazione le faceva raggiungere regni di estatica delizia. Marilla cominciava a perdere la speranza di riuscire a trasformare la piccola orfana respinta dal mondo nella bambina modello con punte riservata che avrebbe tanto voluto. E non si sarebbe mai aspettata di preferire Anna così com'era, con il suo caratterino. Quella sera la bambina era taciturna e sconfortata quando andò a dormire, perché Matthew aveva annunciato che il vento stava girando verso nord-est, quindi c'era il rischio che il giorno dopo piovesse. Il fruscio delle foglie di pioppo intorno alla casa la infastidiva, perché le faceva venire in mente il ticchettio della pioggia e il rombo sordo e lontano del golfo, un suono che spesso si fermava ad ascoltare con piacere, quasi ipnotizzata da quel ritmo regolare, bizzarro, echeggiante. In quel momento però sembrava annunciare tempeste e tremende calamità alle orecchie della bambina, che invece desiderava con tutto il cuore una giornata di sole splendente. Anna ebbe l'impressione che l'alba non arrivasse mai quella notte. Per fortuna, tutto finisce prima o poi, perfino la notte che precede il giorno in cui si è invitati a un tè in canonica. E contrariamente alle previsioni meteorologiche di Matthew, il mattino era soleggiato e l'umore di Anna era al settimo cielo. «Oh, Marilla, oggi dentro di me c'è una gioia che mi fa amare tutti», dichiarò mentre lavava le tazze della colazione. «Se sapessi come mi sento bene oggi, non sarebbe stupendo se fosse sempre così? Se mi invitassero a prendere il tè tutti i giorni, potrei perfino diventare una bambina modello, di quelle bravissime! Però, Marilla, sono agitatissima, è un'occasione talmente solenne, e se sbaglio qualcosa, se dimentico le buone maniere, voglio dire, non ho mai preso il tè in una canonica prima d'ora, e non sono proprio certa di conoscere tutte le regole dell'etichetta, anche se studio il galateo del Family Herald da quando sono arrivata a Green Gables. Ho paura di essere sbadata, anche senza volerlo, o di dimenticarmi qualcosa che dovrei fare. Per esempio, secondo te è maleducazione chiedere un bis se qualcosa ti piace molto?» «Vedi, Anna, il vero problema è che pensi troppo a te stessa. Dovresti pensare solo alla signora Allan e a quale comportamento sarebbe più gentile e gradevole per lei. disse la donna che una volta tanto riuscì a dare un consiglio preciso e di buon senso. La bambina capì perfettamente. Hai ragione, Marilla, devo sforzarmi di non pensare a me stessa. A quanto pare, Anna superò brillantemente la prova, senza gravi affronti alle buone maniere, perché quando tornò a casa, al tramonto, sotto un cielo sconfinato e abbellito da strepitosi cirri sfumati di rosa e zafferano, era in uno stato di autentica beatitudine. Raccontò ogni dettaglio a Marilla con grande gioia. Seduta sulla lastra grande di arenaria rossa sistemata accanto alla porta della cucina. La testa di capelli rossi abbandonata per la stanchezza sulle ginocchia coperte dal vestito di percale della donna. Una brezza fresca, che proveniva dai boschi delle colline a ovest, soffiava leggera sui grandi campi di grano e fischiava fra i rami dei pioppi. Una stella scintillava sopra il frutteto. E le lucciole volavano veloci e leggere lungo il sentiero degli innamorati, in mezzo alle felci e ai cespugli che frusciavano. Anna le seguiva con lo sguardo mentre parlava e sentiva che chissà come il vento, le stelle, le lucciole si fondevano, dando vita a un incanto dolcissimo, difficile da descrivere. Oh, Marilla! È stato un pomeriggio meraviglioso. Ora finalmente ho la sensazione che la mia vita non sia stata inutile e sarà così per sempre, anche se non dovessi più ricevere nessun invito alla canonica per il tè. Quando sono arrivata, la signora Allan è venuta ad aprirmi. Portava un delizioso vestito di organza rosa chiaro, con tanti volanti e con le maniche al gomito. Un angelo davvero. Sai, credo che da grande mi piacerebbe diventare la moglie di un pastore. Magari i miei capelli rossi non gli darebbero fastidio, perché non si preoccuperebbe di particolari così futili, no? Certo dovrei avere una bontà innata che non ho e non avrò mai, quindi è inutile pensarci. Ci sono individui buoni per natura e altri no. Io faccio parte del secondo gruppo, è chiaro. La signora Linde dice che sono intrisa di peccato originale. Per quanto mi sforzi di essere buona, non ci riuscirò mai fino in fondo come chi è buono per natura. Ho idea che sia un po' come con la geometria. Però non credi che anche l'impegno dovrebbe valere qualcosa? La signora Allan fa parte del primo gruppo, ovviamente, quello degli esseri buoni per natura, e io le voglio bene, molto bene. Ci sono persone come Matthew e la signora Allan a cui si vuole bene subito, distinto e senza la minima difficoltà, e ce ne sono altre come la signora Linde per cui ti devi sforzare. Sanno un sacco di cose, si danno tanto da fare in chiesa e tu lo sai, e sai anche che per questo dovresti apprezzarle e voler loro bene, ma devi continuare a ricordartelo, altrimenti te lo scordi. C'era un'altra bambina invitata al tè di oggi, una della scuola domenicale di White Sands. Si chiama Loretta Bradley ed è molto simpatica. Non proprio uno spirito affine, ecco, ma comunque simpatica. Abbiamo preso il tè con grande eleganza e io credo di essere riuscita a rispettare tutte le regole del galateo. Dopo il tè, la signora Alan ha suonato e cantato per noi, ha fatto cantare anche me e Lauretta. Mi ha detto che ho una bella voce e che d'ora in poi la domenica devo cantare nel coro. Sapessi che emozione all'idea! Sognavo da tanto di poter cantare nel coro come Diana, ma avevo paura di non poter aspirare a un onore del genere. Lauretta è tornata a casa presto perché stasera c'è uno spettacolo all'hotel di White Sands e sua sorella sarà sul palcoscenico. Mi ha raccontato che ogni 2 settimane gli americani dell'hotel organizzano una serata di beneficenza per raccogliere fondi che poi devolvono all'ospedale di Charlottetown e invitano sempre qualcuno degli abitanti di White Sands a esibirsi. Lauretta ha detto che un giorno o l'altro lo proporranno anche a lei. L'ho ascoltata a bocca aperta per tutto il tempo, ma dopo che se n'è andata, la signora Allan ed io ci siamo parlate a cuore aperto. Le ho confidato proprio tutto, della signora Thomas e dei suoi gemelli, di Katie Morris e di Violetta, di quando sono arrivata qui a Green Gables e dei miei problemi con la geometria. E sai cosa mi ha detto Marilla? Non ci crederai mai. La signora Allan ha detto che anche lei ha sempre avuto molte difficoltà. Non puoi immaginare quanto mi abbia rincuorato. Stavo ormai per andarmene quando è arrivata la canonica la signora Linde e figurati, Marilla, il consiglio di amministrazione della scuola ha assunto un nuovo maestro, anzi, una maestra. Si chiama Muriel Stacy. Non ti sembra un nome incredibilmente romantico? La signora Linde dice che ad Avon Lee non c'è mai stata una donna come insegnante e che la trova una novità un po' azzardata. Io invece penso che sarà stupendo avere una maestra. E già mi chiedo come farò a sopravvivere in queste 2 settimane prima che ricominci la scuola. Oh, non vedo l'ora di conoscerla. Capitolo 23. Anna si fa male per una questione d'onore. Ovviamente Anna sopravvisse per ben più di 2 settimane. Ormai era passato più di un mese dall'episodio della torta allo sciroppo analgesico, quindi era il momento di cacciarsi in un altro pasticcio, senza stare a contare i piccoli disastri quotidiani, come svuotare distrattamente un paiolo di latte scremato nel cestino del lavoro a maglia, lasciato per caso in dispensa, anziché nel trogolo dei maiali. Oppure, camminando tutta presa da un sogno a occhi aperti, cadere oltre il bordo del ponticello di tronchi e finire a capofitto nel torrente. Una settimana dopo il tè in canonica, Diana Barry diede una festa. Saremo in poche e selezionate, riferì Anna a Marilla. Io e Diana e le nostre compagne di classe. Fu molto divertente e non successe niente di strano fino a dopo il tè, quando si ritrovarono nel giardino di casa Barry, un po' stufe dei soliti giochi e pronte a lanciarsi nella prima birichinata che fosse saltata in mente. E la prima idea fu di giocare a sfidarsi. In quel periodo, quello delle sfide era un passatempo che i ragazzi di Avonlea amavano particolarmente. Avevano cominciato i maschi, ma presto la moda si era diffusa anche tra le bambine. E con le sciocchezze che furono combinate in paese quell'estate, solo perché qualcuno aveva sfidato qualcun altro a farle, beh, si sarebbe potuto scrivere un libro. Cominciò Carrie Sloane, che sfidò Ruby Gillis ad arrampicarsi fino a un certo ramo dell'enorme salice che cresceva di fronte all'ingresso della tenuta. Per quanto fosse terrorizzata dai bruchi verdi, di cui l'albero era infestato, e vedesse già la terrificante espressione di sua madre, se per disgrazia avesse strappato il grazioso vestito di mussola nuovo, la bambina si arrampicò fino al ramo prescelto con grande agilità e con gran dispetto della sfidante Carrie Sloane. Proseguì Josie Pye, che sfidò Jane Andrews a saltellare lungo il perimetro di tutto il giardino sulla gamba sinistra, senza fermarsi e senza mai appoggiare il piede destro a terra. Jane Andrews tentò coraggiosamente la prova, ma alla terza svolta non ce la fece più e riconobbe la sconfitta. Josie cominciò a darsi un po' troppe arie per il suo trionfo, così Anna Shirley la sfidò a camminare in cima allo steccato che delimitava il lato est del giardino. Un esercizio del genere richiede più abilità ed equilibrio fisico e mentale di quanto possa immaginare chi non ha mai provato a farlo. E Josie Pye, pur molto carente di alcune delle qualità che attirano la simpatia del prossimo, aveva il dono naturale e innato, nonché doverosamente coltivato, di saper camminare in cima agli steccati. Perciò seguì il tragitto con rilassata disinvoltura, come se volesse sottolineare che una prova così semplice, per lei non fosse nemmeno una sfida. La sua esibizione fu accolta con ammirazione, per quanto a malincuore, perché molte delle ragazze avevano provato a farlo e ne avevano pagato le conseguenze, quindi sapevano bene quanto fosse difficile. Josie scese dallo steccato con le guance rosse e un'aria compiaciuta, e rivolse uno sguardo di sfida alla rivale. Anna gettò le trecce rosse dietro le spalle. Non mi pare poi questa gran cosa camminare su uno steccato corto e basso come questo, disse. A Marysville conoscevo una bambina che sapeva passeggiare sulla trave al colmo di un tetto. No, non ci credo, ribatté Josie. Nessuno può camminare su un tetto e comunque tu non ne sei capace. Ah no? E chi te lo dice? Gridò Anna senza riflettere. Allora ti sfido a farlo, replicò l'altra sarcastica. Io ti sfido ad arrampicarti su quel tetto e a camminare sulla trave sopra la cucina della signora Barry. Anna impallidì. Poteva fare una sola cosa. Marciò verso la casa, dove una scala a pioli stava appoggiata contro la grondaia del portico fuori dalla cucina. Chi per l'eccitazione e chi per lo sgomento, tutte le bambine di quinta si lasciarono sfuggire un «Oh!» «Non farlo, Anna!» la pregò Diana. «Cadresti cadrai a terra e morirai. Chi se ne importa di Josie Pye? Non è leale sfidare una persona a fare una cosa tanto pericolosa. Devo farlo. Ne va del mio onore, ribatté l'amica con solennità. Io camminerò lungo quella trave, Diana, o morirò provandoci. Se dovesse capitare, lascio a te il mio anello di perline. Circondata dal silenzioso sgomento delle compagne, Anna si arrampicò su per la scala. Raggiunse la trave al colmo del tetto, si mise faticosamente in equilibrio su quel sostegno precario e si mise a camminare. Aveva la confusa consapevolezza di essere in un punto del mondo scomodo e troppo alto, e quando si trattava di fare una passeggiata su un tetto, nemmeno tutta la sua immaginazione era d'aiuto. Riuscì comunque a fare diversi passi prima della catastrofe. Di colpo però ondeggiò, perse l'equilibrio, incespicò, barcollò e cadde, scivolando lungo il tetto cotto dal sole, per poi precipitare in mezzo alla vite americana. Tutto ciò prima che il gruppetto smarrito che seguiva la sua impresa dal basso fosse in grado di emettere un unico grido terrorizzato. Se Anna fosse rotolata dal lato del tetto da cui era salita, con tutta probabilità Diana avrebbe ereditato troppo presto l'anello di perline. Ma per fortuna cadde dalla parte opposta, dove la falda si allungava a coprire il portico e arrivava piuttosto vicino al suolo, così la caduta fu molto meno grave. Ciò nonostante, quando Diana e le altre raggiunsero di corsa l'altro lato della casa, tutte, tranne Ruby Gillis che era rimasta immobile dove era in preda a una crisi di nervi, trovarono Anna lunga e distesa tra le fronde della vite americana. La ragazzina era pallida e non si muoveva. «Anna, ti sei uccisa!» gridò Diana gettandosi in ginocchio accanto all'amica. «Oh, Anna cara, dimmi una parola, almeno per farmi sapere che non sei morta!» Con immenso sollievo di tutte le bambine, in particolare di Josie Pye, che per quanto fosse accusata di avere pochissima fantasia, aveva davanti agli occhi un futuro in cui sarebbe stata segnata a dito come la colpevole della tragica e prematura morte della piccola Shirley, Anna si mise seduta, un po' stordita, e rispose con voce incerta: «No, Diana, non sono morta. Credo solo di essere svenuta.» «Come?» singhiozzò Carrie Sloane. «Oh, Anna, com'è successo?» Tuttavia, prima che la compagna potesse rispondere, la signora Barry fece irruzione sulla scena. Anna provò a rialzarsi, ma ricadde a terra con un acuto strillo di dolore. «Che cosa sta succedendo qui? Ti sei fatta male, Anna? Dove ti fa male?» domandò la signora. «Alla caviglia», rispose la bambina senza fiato. «Oh, Diana, per favore, cerca tuo padre e chiedigli di portarmi a casa. Sono certa di non riuscire a camminare fin là e non potrei arrivarci saltellando su un piede solo. Jane non è neppure riuscita a fare il giro del giardino.» Marilla era nel frutteto e stava riempiendo un cesto di mele estive quando vide il signor Barry attraversare il ponticello di tronchi e risalire il pendio. Al suo fianco c'era la moglie e la coppia era seguita da una fila di ragazzine. L'uomo portava in braccio Anna, che aveva la testa rossa abbandonata sulla sua spalla. Fu in quel momento che Marilla se ne rese conto davvero, come in una visione. L'immediato spasmo di angoscia che le strinse lo stomaco le rivelò cosa davvero fosse Anna per lei. Aveva già da tempo capito che quella bambina le piaceva, o, per dirla tutta, che le voleva bene. Ma mentre si precipitava giù per il pendio, agitatissima, per la prima volta ebbe la consapevolezza che Anna le era più cara di qualsiasi altra cosa al mondo. «Signor Barry, ma cos'è successo?» chiese senza fiato, più pallida e scossa di quanto lei, sempre controllata, distaccata e razionale, non fosse da parecchi anni. Fu la bambina a risponderle, alzando la testa. «Non spaventarti, Marilla. Stavo camminando sul tetto e sono caduta. Ho preso una storta alla caviglia, però ho rischiato di rompermi l'osso del collo. Guardiamo il lato positivo della cosa.» «Oh, lo sapevo che ne avresti combinata una delle tue quando ti ho dato il permesso di andare alla festa!» la sgridò Marilla, brusca, anche se in realtà era decisamente sollevata. «Signor Barry, la porti qui, per favore, la metta sul divano.» «Oh, santo cielo, la bambina è svenuta!» E così un altro desiderio di Anna era stato esaudito. Sopraffatta dal dolore, aveva perso conoscenza. Qualcuno andò di corsa ad avvertire Matthew, che era a lavorare nei campi e che fu mandato con urgenza a chiamare il dottore. Quando arrivò, il medico scoprì che la situazione era più grave di quanto pareva. Anna si era rotta la caviglia. Quella sera Marilla salì in camera di Anna e dal letto la bambina, pallida e avvilita, le chiese con un filo di voce: «Non sei terribilmente dispiaciuta per me, Marilla?» «È stata colpa tua», ribatté la donna, chiudendo la tenda e accendendo la lampada. «Proprio per questo dovresti essere dispiaciuta», continuò Anna. «È il pensiero che sia stata colpa mia a rendere la cosa tanto difficile da sopportare. Mi sentirei molto meglio se potessi dare la colpa a qualcun altro. D'altra parte, Marilla, tu cosa avresti fatto se fossi stata sfidata a camminare sulla trave del tetto?» «Sarei rimasta coi piedi per terra e avrei risposto che se la facessero loro, certe sfide assurde», sbottò la donna. Anna sospirò. «Il fatto è che tu sei forte e decisa di carattere, Marilla. Io no, non sarei mai riuscita a sopportare le prese in giro di Josie Pye. Quella me l'avrebbe rinfacciato per tutta la vita. Comunque, mi sembra di essere stata punita abbastanza, quindi non devi essere troppo arrabbiata con me. Sai, svenire non è affatto piacevole. Il dottore mi ha fatto un male terribile quando mi ha sistemato la frattura. E adesso non potrò muovermi per un mese e mezzo e non conoscerò subito la nuova maestra. E quando potrò tornare a scuola non sarà più una novità. Per giunta, tutti gli altri mi supereranno nello studio. Oh, sono proprio distrutta. Ma mi sforzerò di sopportare e affrontare la disperazione con coraggio. Marilla, se non sarai più arrabbiata con me». «Ma no, non sono arrabbiata», la rassicurò la donna. «Certo, sei una bambina sfortunata, senza dubbio. Però l'hai appena detto anche tu, paghi le conseguenze dei tuoi errori. Beh, basta ora, cerca di mangiare qualcosa». «Almeno è una fortuna che io abbia tanta fantasia», riflette Anna ad alta voce. «Mi aiuterà a superare questo brutto momento. Secondo te, Marilla, come fanno quelli che non hanno immaginazione quando si rompono qualche osso?» Anna fu spesso grata alla propria fantasia nel corso delle 7 noiosissime settimane che seguirono, ma non fu costretta a contare solo su se stessa. Ogni giorno ricevette almeno una visita da qualche compagna di scuola. Tutte andavano a portarle fiori e libri e ad aggiornarla sulle ultime novità nel mondo dei ragazzi di Avonlea. «Sono stati tutti buoni e gentili con me», sospirò Anna contenta, il primo giorno in cui riuscì ad attraversare la stanza zoppicando. «Non è piacevole essere costretti a letto, certo, ma un lato positivo c'è. Ti rendi conto di quanti amici hai? È venuto a trovarmi perfino il sovrintendente Bell, che è davvero un uomo molto buono. Non è uno spirito affine, ma mi piace lo stesso, e sono pentita di aver criticato le sue preghiere. Adesso mi sono convinta che in realtà crede in ciò che dice, ma si è abituato a dirlo come se non gli importasse troppo. Potrebbe migliorare se si applicasse un po'. Comunque, gli ho dato un suggerimento. Gli ho raccontato quanto mi sforzi per rendere interessanti le preghiere della sera. E lui mi ha confidato che anche lui si è rotto una caviglia da ragazzino. È stranissimo provare a immaginare il sovrintendente Bell da piccolo. Ci provo, ma ci sono limiti anche alla fantasia, non c'è niente da fare. Se cerco di figurarmelo da bambino, continuo a vederlo con le basette grigie e gli occhiali, identico a come la domenica al catechismo, però in miniatura. Invece, immaginare la signora Allan da bambina è facilissimo. Pensa, è venuta a trovarmi 14 volte. Vero, Marilla, che è normale essere orgogliosi se la moglie di un ministro della Chiesa ti dedica così tanto tempo? Le sue visite sono sempre così piacevoli. Mi rasserena subito. Non mi ha detto nemmeno una volta che è stata colpa mia e che spera che mi serva di lezione. La signora Linde me l'ha detto tutte le sante volte che è venuta a farmi visita. Per di più, lo diceva in modo da farmi pensare che desiderasse vedermi migliorare, ma non ci credesse sul serio. È venuta addirittura Josie Pye. L'ho ricevuta con la massima gentilezza perché sono convinta che si sia pentita di avermi sfidato a camminare sul tetto. Se fossi morta, lei avrebbe avuto sulle spalle il terribile peso del rimorso per tutta la vita. Diana è stata una vera amica ed è venuta ogni giorno a rallegrare il mio triste capezzale. Comunque sarò felice quando potrò tornare a scuola, perché mi hanno raccontato cose talmente emozionanti sulla nuova maestra. Tutte le ragazze la trovano a dir poco deliziosa. Diana dice che ha i capelli bellissimi, biondi e ricci, e uno sguardo molto affascinante. Si veste con gusto impeccabile e ha le maniche a sbuffo più grosse di tutta Avonlea. Ogni 15 giorni, il venerdì pomeriggio, fanno teatro e tutti devono recitare un brano o interpretare una parte in un dialogo. Oh, il solo pensiero è meraviglioso. Josie Pye non lo sopporta, ma solo perché lei ha la capacità di immaginazione di una formica. Per venerdì prossimo, Diana, Ruby Gillis e Jane Andrews devono preparare un dialogo che si intitola Una visita mattutina. E i venerdì in cui non si fa teatro, la signorina Stacy porta tutti nel bosco per una ricerca sul campo. Studiano le felci, la flora e la fauna e ogni mattina e ogni sera si fa ginnastica. La signora Linde dice che una cosa del genere non si era mai vista ed è così solo perché hanno scelto una maestra. Invece, secondo me, è una cosa stupenda e mi sa proprio che troverò uno spirito affine nella signorina Stacy. Ah, oh, una cosa è certa, Anna, commentò Marilla. Quella caduta dal tetto dei Barry non ti ha fatto perdere la lingua. Capitolo 24. La signorina Stacy e i suoi alunni organizzano uno spettacolo. Quando finalmente Anna poté tornare a scuola era già ottobre. Un ottobre splendido, tutto rosso e oro, con dolci mattine in cui le valli erano inondate da lievi tulli di foschia, veli color perla, ametista, rosa o azzurri, che davano l'impressione di essere stati appena stesi lì dallo spirito dell'autunno per farli asciugare al sole. La rugiada era così abbondante che i campi rilucevano come se fossero intrecciati con fili d'argento e negli avvallamenti boscosi mucchi di foglie fruscianti scricchiolavano allegramente quando qualcuno li calpestava. Il viottolo delle betulle era coperto da una splendida volta dorata e le felci, che crescevano ai margini, erano color ruggine ormai appassite. Perfino nell'aria c'era un profumo appena accennato che spronava i cuori delle ragazzine mentre a passo svelto andavano contente verso la scuola. Fu bello per Anna ritrovarsi seduta accanto a Diana nel piccolo banco di legno scuro con Ruby Gillis che annuiva nell'altra fila, Carrie Sloane che mandava un continuo bigliettino e Julia Bell che passava un pezzo di resina da masticare da banco di dietro. Sospirò soddisfatta, temperò la matita e sistemò le figurine sul banco. La sua era una vita interessante, poco ma sicuro. Anna trovò un'altra amica sincera e disponibile nella sua nuova maestra. La signorina Stacy era una giovane donna intelligente e simpatica, capace di guadagnarsi l'affetto dei suoi allievi e di mantenerlo, aiutandoli a far emergere le loro qualità migliori, intellettuali e morali. Grazie alla sua positiva influenza, Anna sbocciò come un fiore, facendo spesso brillanti resoconti del suo impegno e degli ottimi risultati scolastici a Matthew, sempre ammirato, e a Marilla, sempre critica. Oh, Marilla, sapessi quanto mi piace la signorina Stacy. È incredibilmente garbata, elegante e ha una voce dolcissima. Quando scrive il mio nome non sbaglia mai e mette sempre la A finale. Oggi pomeriggio abbiamo fatto teatro. Avrei voluto che ci foste anche voi a sentirmi declamare Maria, regina di Scozia. Ci ho proprio messo l'anima. E mentre tornavamo a casa, Ruby Gillis mi ha detto che quando ho recitato il verso «E ora alle armi di mio padre», disse, «l'addio del mio cuore di donna», le ho fatto gelare il sangue nelle vene. Beh, ecco, magari un giorno di questi potresti recitare qualcosa anche per me giù nel fienile. Si azzardò a suggerire Matthew. Certo, volentieri, rispose Anna pensierosa, ma so già che non verrà così bene. Non riuscirò a immedesimarmi nel personaggio come quando avevo di fronte una classe intera che mi ascoltava con molta partecipazione. Lo so, non riuscirò a farti gelare il sangue nelle vene, Matthew. La signora Linde mi ha detto che venerdì scorso si è gelato a lei il sangue nelle vene, quando ha visto i ragazzi della scuola che si arrampicavano sui grossi alberi della collina dei Bell a caccia di nidi di corvo, osservò Marilla. Mi stupisce che la signorina Stacy li abbia incoraggiati. Ci serviva un nido di corvo per scienze, spiegò Anna. Era il pomeriggio di ricerca sul campo. Sono pomeriggi magnifici, sapessi, e la signorina Stacy spiega così bene. Ogni volta poi ci fa scrivere un tema sul pomeriggio all'aperto, il mio è sempre il migliore. Non essere presuntuosa, meglio lasciare che lo dica la maestra, se è il caso. Infatti l'ha detto, e io non sono presuntuosa, come potrei, visto che sono una capra in geometria? E poi in realtà sto cominciando a capirci qualcosa. La signorina Stacy riesce a chiarirmi le idee perfino in questa materia, figurati. Però in geometria non sarò mai davvero brava, lo so, e ti garantisco che ammetterlo è segno di modestia. In compenso adoro fare i temi. In genere la maestra ci lascia scegliere l'argomento. La settimana prossima però dobbiamo scrivere una composizione su un personaggio rinomato. È difficile decidere perché ne sono esistiti tanti. Mi sembra una cosa magnifica, che se sei stato un personaggio importante gli altri scrivono temi su di te dopo che sei morto, no? Oh, mi piacerebbe proprio diventare famosa. Da grande credo che farò l'infermiera e andrò sui campi di battaglia con la Croce Rossa, sempre che non decida di diventare missionaria. Certo, sarebbe romantico, però si deve essere molto buoni e questo, per me sarebbe un ostacolo insuperabile. Comunque, ogni giorno a scuola facciamo anche ginnastica per imparare a muoverci con grazia e favorire la digestione. A me sembra che si favoriscano un mucchio di stupidaggini, esclamò Marilla, che in tutta onestà considerava gli esercizi di ginnastica un'emerita assurdità. Finì che i pomeriggi all'aperto, i venerdì di teatro e la ginnastica persero di colpo la loro attrattiva quando, in novembre, la signorina Stacy propose alla classe un nuovo progetto. La maestra invitò tutti gli studenti di Avonlea a organizzare un grande spettacolo che si sarebbe tenuto nella sala del municipio la notte di Natale, al lodevole scopo di raccogliere fondi per l'acquisto di una bandiera per la scuola. Tutti gli scolari si dimostrarono entusiasti, perciò le discussioni per stabilire il programma della serata iniziarono da subito. E fra gli attori che furono scelti, tutti emozionati e contenti, nessuno era più agitato e coinvolto di Anna Shirley, che si gettò anima e corpo nell'iniziativa, benché contrastata dalla palese disapprovazione di Marilla. La donna, infatti, era fermamente convinta che l'idea dello spettacolo fosse una sciocchezza immane. Ah, serve solo a riempirvi la testa di scempiaggini e a sprecare tempo prezioso che potreste dedicare allo studio, brontolò. Non approvo nemmeno un po' che i bambini perdano tempo a organizzare spettacoli. E corrono avanti e indietro per le prove. Diventano dei gran vanitosi vagabondi. Ma Marilla, pensa allo scopo finale. A me sembra davvero encomiabile, sottolineò Anna nel tentativo di perorare la propria causa. La bandiera aiuterà a coltivare il nostro spirito patriottico. Figurarsi, nelle vostre intenzioni il patriottismo non c'entra proprio un bel niente. Voi altri avete solo in mente di divertirvi. Ma scusa, che male c'è a unire patriottismo e divertimento? Certo, organizzare uno spettacolo è davvero piacevole, hai ragione. Pensa, ci saranno 6 numeri diversi e Diana canterà una solo. Io reciterò in 2 dialoghi, la società per l'abolizione del pettegolezzo e la regina delle fate. Anche i maschi reciteranno una scenetta e io devo imparare ben 2 brani, Marilla, pensa, tremo già al pensiero, ma è un batticuore eccitante e piacevole. Alla fine ci sarà un quadro vivente intitolato Fede, Speranza e Carità. Ci saremo Diana, Ruby e io, vestite di bianco e con i capelli sciolti. Io sarò la speranza, terrò le mani giunte, così, e gli occhi levati al cielo. Farò le prove in mansarda. Non spaventarti se ti sembrerà che mi stia lamentando. In una delle scene il mio personaggio deve gemere pietosamente, ed è difficile farlo in modo convincente e artistico, quindi dovrò esercitarmi un po'. Josie Pye si è offesa perché non ha ottenuto il ruolo che voleva. Certo, pretendeva di fare la regina delle fate, ma sarebbe stato ridicolo. Chi l'ha mai vista una regina delle fate grassa come Josie? Le regine delle fate devono essere snelle. Per questo la parte è andata a Jane Andrews e io sarò una delle sue damigelle d'onore. Secondo Josie, una fata con i capelli rossi è ridicola, come una fata grassa. Ma a me non interessa quello che dice lei. Mi metterò sui capelli una coroncina di rose bianche e Ruby Gillis mi presterà le sue scarpette, perché io non ne ho. Per le fate è fondamentale indossare un bel paio di scarpe, sai? Non riesco proprio a immaginarmi una fata con gli scarponi, e tu? Soprattutto se hanno la punta di rame come i miei. Sai, abbiamo deciso di decorare la sala con rami di pino e di abete ornati con rose di carta velina. Entreremo in fila per due, quando il pubblico sarà già seduto, mentre Emma White suonerà una marcia con l'organo. Oh, Marilla, lo so che non sei entusiasta quanto lo sono io, ma non speri che la tua piccola Anna si faccia onore? L'unica cosa che spero è che ti comporti come si deve. Sarò contenta solo quando questa faccenda sarà finita e finalmente ti metterai un po' tranquilla. Non riesci più a fare niente in questi giorni, tanto hai la testa piena di dialoghi, gemiti e scenette. Quanto a quella lingua, poi c'è da stupirsi che tu non l'abbia ancora consumata del tutto. Anna sospirò e andò nel cortile dietro casa, dove nel cielo verde mela a ovest una bianchissima luna nuova splendeva fra i rami spogli dei pioppi, mentre Matthew spaccava la legna per il camino. La ragazzina si appollaiò su un grosso ciocco e cominciò a raccontargli dello spettacolo. Con lui era sicura di trovare un ascoltatore attento e comprensivo. Beh, ecco, sarà un bello spettacolo e sono certo che farai la tua parte nel modo migliore possibile, disse quel brav'uomo sorridendo al faccino vivace di Anna, che ricambiò il sorriso. Ormai erano diventati grandi amici e spesso Matthew ringraziava la sua buona stella per il fatto di essere escluso dall'ingrato compito di educare quella bambina. Era compito esclusivo di Marilla quello. Se fosse toccato a lui, si sarebbe dovuto preoccupare molto dei continui contrasti tra il carattere estroverso e impulsivo della ragazzina e il senso del dovere radicato nella famiglia e nella società. Invece, stando le cose come stavano, era libero di viziare Anna, così sosteneva Marilla, quanto gli pareva. In fondo, il compromesso non era poi così male. Un po' di solidarietà ogni tanto ci vuole e fa bene almeno quanto tutta la rigorosa buona educazione del mondo.